La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi in una settimana che porta in sala una decina di nuove pellicole e che, diciamo così, porta anche una ventata di cinema estivo, nel senso che si comincia un pochino a parlare di estate anche nei film, a trattare anche qualche tema più leggero, ma non troppo, perché effettivamente, diciamo, la cosa più estiva a cui stiamo assistendo è l'irrompere di una serie di pellicole di genere horror che sono un po' le regine dell'estate in qualche modo. Parleremo di molti film in questa nostra settimana, come sempre giocheremo insieme con il nostro film misterioso per farvi vincere degli splendidi DVD e Blu-ray dei film più belli della stagione. E allora cominciamo subito con un film che è arrivato appunto nelle sale da pochi giorni, un film che arriva dalla Spagna, si intitola Mamà, tutto andrà bene, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Da quanto hai questo fastidio? Un paio di mesi, sono malata. È al terzo stadio. E che significa terzo stadio? Terzo stadio significa operazione, chemioterapia, capelli che cadono. Non è ancora quarantenne Magda e la vita non le sta risparmiando nulla. L'addio del marito, il lavoro da insegnante che non c'è più e ora un cancro al seno. Cancer de mama, della mammella in spagnolo, la parola che è nel titolo e che significa anche mamma, mettendo insieme le due anime inscindibili del film, la malattia e la maternità. Sarà dura, ma cerchiamo di non piangere. Devi starmi vicino e darmi forza. Amore mio. Mi prometti di portarmi al mare? Non potrei stare al sole. E allora compriamo un ombrellone più grande. Il tuo sogno si è avverato. È una bambina. Le cose terribili e le migliori nella vita spesso vengono nello stesso momento. Il giorno della diagnosi è quello in cui Magda conosce Arturo, talent scout di calciatori. Il figlio di lei è un piccolo campione. Quest'uomo ha perso moglie e figlia in un incidente stradale. Sarà lui a sostenerla insieme al figlio, appunto, e al ginecologo durante gli ultimi mesi di vita che coincidono con il ritorno del cancro e la seconda gravidanza. Il mio sogno è che tu viva una vita meravigliosa e che crescendo dentro di me riuscirai a guarirmi. Sognarlo che fue nuestro camminar siempre adelante. Cosa sono sicuro? Tutto andrà bene. Giusto. È il corpo di Penelope Cruz che si trasforma, il protagonista di Mama, di Julio Medem, già regista di Lucia e il sexo, che tre volte in passato aveva cercato, senza fortuna, di lavorare con l'attrice premio Oscar. Una collaborazione che si è concretizzata oggi anche con una produzione comune. Medem, il film, l'ha scritto partendo dalla visione di una statua in un museo. Io veo esa mujer de bronce. Ho visto questa donna scolpita nel bronzo e mi sono detto: o è malata o è l'esatto contrario, o ha dentro di sé le due cose, la morte e la vita. Con Penelope abbiamo lavorato su questo, sapendo che partivamo da una tragedia iniziale. C'è un male, c'è un cancro, ma c'è anche una catarsi attraverso l'amore, per esempio. Contemporaneamente si tiene però sempre la morte come un orizzonte vicino e la vita sempre al centro, che acquista più valore. Magda ribalta e affronta in positivo la malattia mortale e lo spettatore partecipa della sua sofferenza fisica e psicologica grazie all'interpretazione della Cruz, che sostiene la pellicola anche quando questa è meno convincente, cede al simbolismo con la bambina immaginata e i granchi sulla spiaggia. Forse è la canzone che canta il ginecologo a riassumere al meglio la pellicola. Andare sempre avanti, anche quando c'è da soffrire. Questo è vivere. E questo quindi il racconto di Mamà, tutto andrà bene, di Julio Medem, con Penelope Cruz protagonista. Per tanti ammiratori italiani della bella e brava attrice spagnola, un'occasione per vederla in una prova, come avete capito anche dal racconto di Chiara Pizzimenti, piuttosto intensa. Andiamo a vedere un po' cosa è successo al box office nei primissimi giorni di uscita dei nuovi film, con Angry Birds, di cui parleremo fra poco, che si è subito piazzato in testa, seguito da Now You See Me 2, di cui abbiamo parlato invece settimana scorsa resiste bene Alice attraverso lo specchio e anche Warcraft continua la sua, il suo buon andamento in sala. Da registrare dopo Conspiracy la pazza gioia invece di Virzì, che continua, come vedete, settimane dopo la sua uscita a essere alto nelle classifiche degli incassi. La pazza gioia, che è diventato in termini assoluti un vero e proprio caso, insomma, fortunatamente per il nostro cinema, a dimostrare anche che il buon cinema può andare al di là delle stagioni, il buon cinema può attraversare l'estate, la primavera, non è quello il problema, e il film di Virzì lo sta dimostrando. Box office invece generale, diciamo così, settimanale, che quindi non comprende i primi vagiti al botteghino dei nostri, dei nuovi film, ma quelli della settimana scorsa, che vede in Italia Now You See Me 2 al termine della scorsa settimana in testa alla classifica, davanti Alice attraverso lo specchio, Warcraft era terzo, La pazza gioia quarto. La scorsa settimana ha superato i 5 milioni di euro d'incasso. Un'occhiata anche a quelli che sono gli incassi e il botteghino americano, perché The Conjuring, il caso Enfield, ha già esordito in America, appunto parlavamo di horror, ed è primo in classifica con 40 milioni di dollari incassati nel primo weekend, quindi un esordio davvero importante, così come anche non è andato male Warcraft, che ha cominciato con 24 milioni di dollari, terzo posto per Now You See Me 2, e poi un paio di film, diciamo, di ampio pubblico, come Tartarughe Ninja, Fuori dall'ombra e X-Men Apocalisse. Questa è un po' la situazione dei botteghini in Italia e all'estero. Fra poco noi torniamo qui in onda con il cinema, perché dobbiamo parlare di un film che si intitola Conspiracy. Ne parliamo fra poco dopo la viabilità. La Rosa Purpurea. E siamo qui con la seconda parte della Rosa Purpurea. Andiamo avanti con le novità in sala, con un film che riporta sul grande schermo un cast importante, capitanato da Al Pacino, Anthony Hopkins insieme a Josh Dudamel e a tanti altri. Il film si intitola Conspiracy, la cospirazione. Vuole procedere contro Denning per frode in danno del pubblico, un uomo che vale 8 miliardi e mezzo di dollari. Io combatto per vincere. Se Denning scopre questa fuga di notizie, sarai esposta. Esponi quello che vuoi. Stai giocando col fuoco. Gli ha stuzzicato la belva. Adesso lui è irrequieto e pronto ad attaccare. Meglio spingersi troppo in là che non abbastanza in là. Ecco Boris, questo era il trailer, la clip di Conspiracy. Salutiamo anzi Boris Sollazzo, che si è collegato con noi. Raccontiamo un pochino questa nuova avventura cinematografica di Al Pacino. Ma è l'ennesima dimostrazione che tu puoi avere il cast migliore del mondo, puoi avere anche due assi straordinari come Anthony Hopkins e Al Pacino, e comunque se il manico, ma forse lo schema, ecco, cioè, se vogliamo fare una metafora calcistica, se l'allenatore o ancora di più lo schema non è valido, è difficile tirarci su qualcosa di buono. Se poi invece di puntare veramente su Al Pacino e Hopkins punti magari sul cavallo sbagliato, come può essere Duhamel, che poverino si impegna pure nella sua parte da protagonista, ma poi non riesce a dare quel carisma, quella forza al suo personaggio che sono necessarie per un film che può ricordare da lontano anche il socio, tutto va un po' a gambe all'aria. Il problema è proprio questo, che il regista si ritrova un materiale troppo complesso, troppo difficile da maneggiare, e allo stesso tempo lui non riesce a dargli un tono. Qui siamo in mezzo a un complotto, siamo in mezzo a una serie di mali del nostro mondo, del nostro capitalismo, e ci sta un buono in teoria che dovrebbe occuparsene, ci sta un sistema che potrebbe andargli contro, un po' tra Wall Street e l'avvocato del diavolo. E si usano praticamente tutti i toni, come si usano praticamente tutte le idee, i colpi di scena. Il risultato qual è? Solo un film sempre costantemente sopra le righe, sempre costantemente con la battuta sbagliata perché eccessiva al momento sbagliato, e quindi francamente veramente difficile trovare in questa cospirazione qualcosa di realmente interessante. Sembra più quello che ogni tanto ci capita di vedere su Facebook da parte di qualche esagitato che sostiene magari che qualcosa riguarda un complotto che è difficile anche solo vagamente da rendere credibile. Ecco, Boris, anche la sensazione che insomma oggi alcuni grandi attori, appunto, come lo stesso Al Pacino, tranne magari quando fa le sue cose, no? Quando fa cose che sente proprio completamente sue, ma questi grandi attori, Anthony Hopkins ne è un esempio, a volte faticano un po', come dire, a leggere lo strumento cinema di oggi, che ha un linguaggio, un ritmo, un modo di porsi davanti alla telecamera che probabilmente è cambiato. Assolutamente sì, o meglio, se non hanno un regista che gli dà il nuovo alfabeto e che ha una mano abbastanza ferma da condurli, nonostante loro siano dei maestri, e loro tornano a ciò che conoscono meglio, e quindi tornano magari a una recitazione di decenni fa, o tornano a quei trucchetti che hanno sempre usato, Al Pacino in particolare, ma anche Hopkins, per piacere al pubblico, e l'effetto De Niro è un passo, poi l'effetto De Niro ovviamente parlo degli ultimi 20 anni. Sì, sì, che poi significa raccogliere parecchi soldi con cameo più o meno allungati, ma poi alla fine, come dire, in termini strettamente cinematografici dire poco. Ripeto, Al Pacino forse è ancora un po' fuori da questa cosa, ogni tanto riesce, come dire, ancora a fare del suo, a dare un valore aggiunto. A volte questi film rischiano un po' di fare solo effetto belle facce sulla locandina e magari non andare molto oltre. Comunque, questo è Conspiracy, la cospirazione al cinema. Noi a questo punto cominciamo a giocare insieme, perché come sempre vi facciamo ascoltare due tracce di un film misterioso che dovete indovinare e di cui vi daremo l'identità del film alla fine della nostra puntata dei vincitori la prossima settimana. Sentiamo. Aspetta un attimo. Pelliccia di orso polare, musica folk siciliana, bicchiere personalizzato. So di chi è quest'auto. Dobbiamo andare. E allora, che film è? L'avete già indovinato? L'avete già compreso? La Rosa Purpurea, @radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica per giocare con il vostro nome, cognome e indirizzo e con il titolo del film, ovviamente, provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi vi daremo un'altra traccia. Cambiamo genere, ma in un certo senso ci riallacciamo un po' al discorso che stavamo facendo poco fa, appunto sui grandi attori di una certa generazione e sul loro approccio al cinema di oggi. Forse non sfugge a questa regola anche Richard Gere, che ha sposato parecchi progetti negli ultimi anni, magari non particolarmente riusciti, nei quali appunto si cerca di capire se è la ricerca di un pubblico quella che è più importante, o se è quella di partecipare invece a un film magari nel quale si crede molto. Richard Gere si è speso molto sul lato umano, diciamo così, sul lato del dramma più umano, e anche in questo caso con Gli Invisibili le cose vanno così. Negli ultimi 10 anni mi sono sentito come se fossi uno stupido, sfigato idiota. E io non ne sono più così sicuro. Sono un senza tetto. No, tu sei solo... Sono un senza tetto. Sei al verde, ma sono un senza tetto. Io non esisto. Sei al verde. Noi siamo invisibili. Boris, allora, la storia di un uomo disperato in una New York che sembra sempre più inospitale, e anche, come dire, dell'ingresso in un inferno che tutti noi cerchiamo di evitare con i nostri sguardi, che è quello dei più emarginati, che è quello dei centri di accoglienza per i senza tetto, dove però, nel film almeno, nasce un'amicizia che fa rinascere la vita. Sì, difficile capire se cosa volesse fare Oren Moverman negli Invisibili. Tra l'altro, appunto, Gli Invisibili è quel classico titolo didascalico che danno in Italia e che rovina ancora un po' di più il film, perché ti dà ancora di più un elemento della già magra trama che ti vuole raccontare. E Oren Moverman è un grandissimo regista, a mio parere. Aveva fatto Rampart, aveva fatto Oltre le regole con Woody Harrelson e Ben Foster, che era un bellissimo film di guerra, che era tutto giocato su due che dovevano dare notizie ai parenti sui morti in Iraq, se non sbaglio. Sapeva giocare sul dolore e sulla potenza, purtroppo, che questo dolore può avere, con una grazia, con una bravura e anche con una lucidità che erano davvero sorprendenti, soprattutto perché non c'era retorica. Probabilmente se l'era messa tutta da parte per gli invisibili. Che cosa fa? Con gli invisibili dà un ruolo di senza tetto a Richard Gere, e già qui insomma anche la casting più brava si sarebbe messa le mani nei capelli, perché immaginate come l'uomo forse più elegante del mondo, più affascinante del mondo, l'uomo che è invecchiato meglio al mondo, si possa trasformare in un senza tetto, soprattutto se, come era prevedibile, non ha una voglia reale di trasformarsi, non ha una voglia alla Charlize Theron di rovinarsi, di sporcarsi realmente, e quindi ci ritroviamo con questo senza tetto, dispiace dirlo, fighissimo, in cui tutti cercano di impegnarsi per fare almeno, e lo dico con ammirazione per il film di Muccino, la ricerca della felicità, ma non succede neanche questo, perché non è mai credibile, tutto è estetizzante. Ovviamente il divo che arriva nel film lo monopolizza, quindi noi ci ritroviamo con un regista spudoratamente innamorato del suo protagonista, tanto che a un certo punto la città, che dovrebbe essere una delle protagoniste, inevitabilmente addirittura si sfoga per catturare i primi piani di Richard Gere, che però denunciano ancora di più la non credibilità del personaggio. Quindi è un film che poteva anche essere interessante, perché Gere un ruolo così non l'aveva mai realmente avuto, Moverman una storia così non l'aveva mai veramente raccontata, però la domanda o la risposta è forse che c'era un motivo, perché entrambi non avevano ancora fatto una cosa del genere. Assolutamente, insomma, gli invisibili forse resteranno poco visibili, tra l'altro appunto come dicevi giustamente tu, è veramente vedere Richard Gere in questo ruolo stona un pochino, se vogliamo, con quella che è anche l'allure che accompagna il grande attore americano. E allora Gli Invisibili, tra l'altro hai citato, Boris, il titolo italiano, dicendo insomma che annacqua un pochino, effettivamente ricordiamo il titolo originale Time Out of Mind, che è un titolo bellissimo, no? Cioè quando la mente si prende una pausa, no? Cioè Time Out of Mind è straordinario, ma qui, Boris, lo diciamo da tempo, cioè, no? Cioè, che c'è fortunatamente una sempre maggiore omologazione dei titoli originali che arrivano in sala in Italia come titolo originale, ma a volte ancora cerchiamo di metterci lo zampino con successi abbastanza scarsi, tutto sommato. Allora, facciamo così, Boris, adesso diamo la linea alla regia. Torniamo fra poco, perché dobbiamo parlare di altri film che veramente, come sempre, la programmazione cinematografica ci offre, vanno dal serissimo al facetissimo. In questo caso il serissimo è l'arrivo in sala di un film di Xavier Dolan, vero grande, non dico più enfant prodige, vero grande, come dire, regista emergente / emerso, tra quelli che hanno veramente ancora qualcosa da dire, con Laurence Anyway, che è un film di qualche anno fa che arriva in sala, ma è un bene andarlo a vedere. E poi invece il facetissimo è Angry Birds, cioè un videogame che diventa film. Ne parliamo fra poco qui alla Rosa Purpurea. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea continua con un film del 2012. Non è uno scherzo, non è una battuta. Anzi, è un bene perché Xavier Dolan, come dicevo, è diventato un po' il regista che sta incantando i festival internazionali, e sarebbe bene cominciasse a incantare anche il pubblico, perché è un regista che ci riporta, a mio modo di vedere, per incapacità di innovare il linguaggio, per capacità di affrontare i temi, per sguardo cinematografico ai grandi registi degli anni 60 francesi e italiani. Si è fatto il nome di Bertolucci, si sono fatti paragoni con alcuni dei migliori autori della Nouvelle Vague. Xavier Dolan, tra l'altro, classe 1989, scusate se poco, stiamo parlando di un 27enne attore, regista, sceneggiatore, che ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2014 con Mommy, che ha vinto il Grand Prix sempre a Cannes con Juste la fin du monde, che quest'anno era ancora presente a Cannes, ma che nel 2012 segnava un film che in Italia era passato totalmente inosservato. Si intitolava appunto Laurence Anyways ed era stato presentato alla sezione Un Certain Regard. Allora, qual è il suo nome completo? Laurence Emmanuel James Allier. Basta! Proust spiegava troppo per i miei gusti. 300 pagine per comunicarci che Tuture si scopava a Tatav sono un po' troppe. Congratulazioni, Laurence. No, è solo un piccolo premio. Spero che brinderai alla nostra salute questa sera. Salute, tesoro. Non sono, ti ripeto, un omosessuale, Fred. Sei frocio, sei gay. È che non sono fatto per essere un uomo, è diverso. Questa è la clip di Laurence Anyways, la storia di un uomo che voleva diventare una donna, che il giorno in cui compì 30 anni decise di comunicare questa cosa a chi gli stava intorno, alla sua fidanzata, ai suoi parenti, ai suoi studenti, visto che era un professore universitario. Voleva diventare una donna ed era un percorso, come potete immaginare, molto molto travagliato. È un film che, con la solita durezza ma anche con la solita grazia che sono proprie di Xavier Dolan, affronta un tema difficilissimo, perché si fa presto poi a mettere tutto insieme. C'è anche una battuta nel film in cui la fidanzata non capisce, gli dice: ma allora sei gay? E lui dice: no, io non sono gay, io sto dentro un corpo che non è il mio e per 30 anni ho affrontato questa cosa, adesso non ce la faccio più. Voglio diventare quello che mi sento. E quindi c'è una serie di sfumature che vengono trattate in maniera perfetta da Xavier Dolan sull'appartenenza, sul genere, proprio un film sul genere, che sono difficilissime da raccontare. Un film piuttosto lungo, ma che non vi lascerà un attimo senza lo sguardo incollato allo schermo. Boris, questo è davvero un autore immenso, secondo me. Assolutamente d'accordo, potremmo dire che è un film di genere sul genere, perché poi anche la struttura del melodramma che racconta è davvero padroneggiato, come forse non è riuscito a fare neanche dopo. Io sono abbastanza d'accordo su una sola similitudine rispetto al passato di Xavier Dolan, che si fa e che si spende spesso, e che è quella con Bertolucci, perché mi sembra che abbia la stessa felicità di racconto, di idee, di innovazione che aveva Bertolucci, allo stesso tempo però di andare a essere sia empatico che estetico, a differenza magari della Nouvelle Vague. Un altro solo può essere Truffaut in questi termini, e questo però dovrebbe farvi capire, se scomodiamo Bertolucci e Truffaut, che ci troviamo di fronte a un genio che non ha neanche 30 anni e che racconta delle storie meravigliose. Per me, tra l'altro, questo di cui andiamo a parlare, Laurence Anyways, è il suo film più riuscito, perché chiaramente per l'età che ha ancora dei difetti, ancora dei problemi, soprattutto nell'insieme del racconto, a volte acerbo, altre volte va sopra le righe. Ha una capacità di girare straordinaria, una capacità di raccontare gli attori e i personaggi come nessun altro. Qui Melvin Poupeau dovrebbe aver vinto, perché parliamo di un film di 4 anni fa, qualsiasi tipo di premio, tanto è bravo. È tutto quello, Laurence Anyways, è tutto quello che vi aspettavate da Danish Girl e che Danish Girl non vi ha dato: la sensibilità di andare oltre le categorie, ed è esattamente quello che fa Xavier Dolan nel cinema, che non riesce a essere ingabbiato da nessuna categoria. Quella scena che tu hai raccontato è una scena bellissima, perché giustamente lei è abituata alla società che sta respingendo suo marito, lei non lo vuole respingere ma cerca comunque una risposta, e lui non gliela dà, perché lui sta parlando del corpo, non sta parlando dell'inclinazione sessuale, sta parlando del fatto che ognuno di noi può sentirsi o non sentirsi a suo agio nel posto in cui sta, nel corpo in cui sta, con le persone con cui sta, e la forza di Dolan è raccontarlo come se fosse qualsiasi altra cosa, come se avessi messo magari una scarpa con due numeri in meno. Non tira in mezzo né la politica né a nessun altro tipo di sovrastruttura, e lo fa però raccontandolo con quella sua capacità, che è quella di andarti al cuore, dritto al cuore, poi dritto al cervello e poi anche alla pancia. Diceva Julia Roberts in Pretty Woman: mi si sono rovellate le budella. Ecco, alla fine del film vi succederà anche questo, quindi è il più bel film del forse migliore regista in questo momento su piazza. Andatelo a vedere, non so che cosa dirvi di altro. Assolutamente, no, ma sposato in pieno. E tra l'altro, sai, Boris, cos'altro mi veniva in mente vedendolo? Un altro paragone con un regista invece del presente, che secondo me è l'altro genio, che, come hai detto tu giustamente, per Dolan ogni tanto va sopra le righe, ogni tanto ha problemi d'insieme, ma riesce sempre in ogni film a regalarti delle immagini che difficilmente dimenticherai, e forse questo non è il compito intimo del cinema. E sto parlando di Nicholas Winding Refn, che proprio settimana scorsa abbiamo avuto ospite in un'intervista esclusiva qui alla Rosa Purpurea per parlare di Neon Demon, un altro film che a Cannes è stato fischiato, è stato diviso molto, ma che secondo me è un altro film che rimarrà. È un altro film che rimarrà perché anche lì lui sa dipingere cinema, anche lui ha questa ossessione per la musica techno anni 80, anche lui lavora molto sull'estetica, sul corpo, sull'appartenenza. Ecco, forse sono due registi, Dolan giovanissimo, Refn giovane cinematograficamente, ha più o meno 40 anni, però sicuramente di questa generazione, di questo cinema, che potrebbero essere davvero i due capostipiti di una cinematografia nuova. No, è assolutamente giusto questo paragone che fai tra Refn e Dolan. Sono anche molto complementari a mio parere, perché Dolan si rivolge anche in maniera civettuola al pubblico, quanto invece il buon Refn cerca qualcos'altro. Quel binomio che si è creato nella nulla e vaga tra Godard e Truffaut, no? Godard tutto dedito all'arte, Truffaut però invece anche dedito a un pubblico a cui vuole rimanere legato. Di sicuro sono gli unici in questo momento che utilizzano il cinema per innovare, per scoprire, ma soprattutto per inventare e per trovare all'interno tutti i suoi linguaggi, e in questo forse sono ancora migliori dei loro nonni e dei loro padri, perché hanno veramente una grandissima capacità di percorrere tutte queste vie senza paura e con grande creatività. Lawrence Anyways quindi è il film della settimana, direi decisamente, da quello che abbiamo detto fino adesso con Boris. Non perdetelo nelle sale in cui viene programmato. Andiamo avanti con il nostro gioco, con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Scusami, sono qui giù. Ciao. Per tutte le macchie di ghepardo, hanno davvero assunto una coniglietta. Che storia! E allora, se avete indovinato di che film si tratta, la Rosa Purpurea, @radio24.it è il vostro indirizzo per provare a giocare, per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film che sveleremo fra pochi minuti prima della fine della nostra puntata. Chiaramente poi i vincitori saranno comunicati la prossima settimana. E allora andiamo avanti con le novità in sala. Abbiamo detto il serissimo e il facetissimo, ci siamo messi a giocare con i termini, ma adesso davvero è il momento di alleggerire molto, perché nelle sale, come avete visto anche in apertura di programma, con buon successo subito dall'inizio, è arrivato Angry Birds, uno dei game, dei videogiochi più giocati, penso, della storia. Diventa film, diventa cinema, d'animazione digitale, e allora andiamo a sentire la clip. Il mondo è in pericolo e tocca a noi fermarli. Water! Bottole, becco! Frattaglie! Poveri noi! Se c'è uno che sa cosa vogliono fare, è Grande Aquila! Il lago della saggezza di Grande Aquila! Uscite da lì! Non spruzzargliela in bocca! No, non rifiutargliela! Ah, non mandarla giù! Vabbè. Orribile serie di eventi. Orribile. E allora questa è la clip di Angry Birds. Scopriremo appunto perché finalmente questi pennuti sono così arrabbiati, quindi insomma c'è anche qualcosa che riporta le origini del gioco. La settimana scorsa avevamo parlato di Warcraft e avevamo raccontato come quello che era un altro film tratto da un celebre videogioco fosse molto riuscito come film e avesse trovato l'anima sincera, l'anima vera di quel gioco. È successo anche questa volta con Angry Birds, Boris? Sì, e tra l'altro probabilmente è l'assurdità dell'operazione artistica, creativa e commerciale che ha portato chi l'ha fatto a fare qualcosa sicuramente di meglio del videogioco, che è un videogioco caotico, folle e molto semplice, insomma, fatto per gli smartphone, che è fondato su una sola interazione sostanzialmente ripetuta più volte. E però bisognava prendere gli Angry Birds e spiegare perché erano così arrabbiati sostanzialmente, e apri un mondo in quella maniera, perché dover spiegare perché fossero così arrabbiati quegli strani uccelli che poi non erano capaci di volare perché venivano lanciati chiaramente apriva le porte a qualcosa di incredibilmente surreale, perché tu hai un popolo di uccelli che non volano, incredibilmente divertente, perché devi spiegare perché un uccellino dovrebbe, o un uccellone in questo caso, dovrebbe essere così tanto arrabbiato e sempre così arrabbiato. Ne esce fuori una spiegazione meravigliosa, che è da una parte quello che noi siamo abituati a vedere dall'animazione, cioè l'unicità del personaggio, del protagonista, che viene emarginato ma che in realtà è speciale, è migliore degli altri, pensiamo a Nemo per intenderci, e dall'altra però questo è migliore perché non ha dei sentimenti positivi. Nemo era dolcissimo, era sfortunatissimo, era rimasto orfano, non potevi che volergli bene. Questo invece è un animale che è sempre arrabbiato, che ha sempre, non sopporta le persone invadenti, non sopporta le persone che parlano troppo, non sopporta quello che noi non sopportiamo sempre. È l'antieroe della nostra normalità, della nostra quotidianità, che a un certo punto deve andare anche in un gruppo di controllo della rabbia, come capita magari a qualcuno di noi, dove trova altri come lui. E però ci sono una serie di sfumature straordinarie in questo film. Oltre al divertimento, oltre all'animazione buona, c'è anche per esempio uno di questi altri tre, come il nostro Rosso, che è un personaggio gay, però a differenza anche del cinema più maturo, non fa del suo essere gay il centro della sua caratterizzazione, no, è una caratteristica come un'altra. Ora, fa ridere mettere Angry Birds sul piano di Dolan, però è una finezza che fa capire con quanta cura sia stata fatta e anche con quanta intelligenza sia stato fatto questo film. Quindi io non me l'aspettavo, ma devo dire che tranne il doppiaggio italiano va veramente tutto bene in Angry Birds, compresa una colonna sonora che vi stupirà. So che vi metterete le mani nei capelli, ma insomma tra Dolan e Angry Birds non c'è poi così tanta strada. questa è una, come dire, una verità scomoda, diciamo così, Boris. Tra l'altro dicevi del doppiaggio italiano, ancora una volta in questo caso Maccio Capatonda, Alessandro Cattelan, Chiara Francini, ma ancora una volta, come dire, si scelgono strade di notorietà prima ancora che magari di adattamento sul personaggio, e questo non sempre funziona, anzi non funziona quasi mai. Allora, con Angry Birds noi chiudiamo la terza parte del nostro programma, però abbiamo ancora un film di cui parlare, ed è forse un altro dei film da non perdere di questo fine settimana. Si intitola Tutti vogliono qualcosa, lo ha firmato Richard Linklater. Ne parliamo fra poco, dopo le viabilità. La Rosa Purpurea. La quarta parte della Rosa Purpurea, fra poco vi ricordo i vincitori del game della scorsa settimana, lo svelamento del game di questa settimana, del film misterioso di oggi, insomma state con noi. Però prima un altro film che vi vogliamo mandare in sala a vedere, si intitola Tutti vogliono qualcosa. Questo non è il liceo, è chiaro, qui siamo a un altro livello. Devi dimostrare di essere degno della confraternita. Chi diavolo sei? Jake Bradbury. Fino ad allora non sei nessuno. Scusa? Sì. Sì. Ciao. Mi presento quello nuovo. Due regole. La prima, niente alcol in questa casa. La seconda, niente ragazze nelle camere da letto. Sono preoccupato per i nuovi ragazzi. Faceva bene essere preoccupato, colui che era preoccupato, perché effettivamente in questo film succedono un po' di tutte. Allora, Tutti vogliono qualcosa, il film di Richard Linklater, il primo film di Richard Linklater dopo l'incredibile Boyhood, di cui tanto si è parlato, che tanto è emozionato, e lui cosa fa? Cambia completamente tutto. Registro, anima, anni. Nel 1980 Jake arriva al college, chiara classica condivisione con i compagni della squadra di baseball dell'università, e chiaramente, come dice il sovrattitolo della locandina, il primo anno di college non si scorda mai. Sono le peripezie di una serie di giovani del 1980, anche per paragonarle a quelle di oggi. Boris, una sorpresa da Richard Linklater, questa commedia giovanile? Ma una sorpresa, ma anche no, perché poi torna laddove ci aveva lasciato per La vita è un sogno. Lì ci aveva lasciato all'ultimo anno di liceo, qui ci riprende ai primi vagiti dell'università, e questo ci fa capire come questo straordinario regista, che a mio parere si era perso qualche anno fa ma che si è ritrovato prepotentemente con Boyhood, abbia consacrato sostanzialmente una carriera al tempo che passa, al racconto cinematografico del tempo. Forse la cosa più difficile del mondo, lo ha fatto prima con Un amore che si continuava a perpetrare nonostante tutto, o forse proprio grazie a lui, e lo ha poi fatto appunto con Boyhood, che è un esperimento estetico, artistico, secondo me cinematografico è anche davvero poco da dire, e adesso lo fa tornando banalmente e dumassianamente a un vent'anni dopo. E lo fa però con la tattica Salvatores. Faccio un film che mi fa vincere un Oscar, o faccio un film che diventa un cult straordinario perché è qualcosa di impossibile da replicare con i suoi 12 anni di lavorazione e via dicendo, e allora questa volta mi voglio divertire. E ne esce un college movie eccezionale, ma fatto da Linklater. Mi piace molto ricordare quale sarebbe la traduzione vera del titolo inglese, che è Tutti ne vogliono un po', che è un po' diverso da Tutti vogliono qualcosa, perché Tutti ne vogliono un po' di me, Tutti ne vogliono un po' di questa esperienza, ed è esattamente quello che vuole raccontare Linklater. Lo racconta con una poesia, ma anche con una sfacciataggine straordinaria e con una libertà di regia che gli consente di fare una cosa che fanno quasi tutti i registi di questa settimana, tra l'altro, esplorare la musica. Lui racconta il tempo che passa attraverso il passaggio dal metal al punk, attraverso la sua passione per il country. Lui ha detto che sia La vita è un sogno sia questo film sono estremamente legati alla sua autobiografia, però usa la colonna sonora come protagonista e usa anche questi attori molto bravi per divertirci, e tutto a un tratto sembra essere tornati un po' ai tempi di Belushi, quando appunto il college movie era anche molto molto altro, però anche nella modernità, ed è il solito gioco di Linklater, passato, presente, futuro, perché c'è anche la spensieratezza del film di genere, della commediaccia che vuole divertire. Davvero è uno dei pochi registi che più va avanti con il tempo, ecco che torna il tempo in Linklater, più matura, più diventa diverso, più sembra trovare una felicità narrativa. Non vedo l'ora che abbia 80 anni. E allora questo è l'ultimo film di questa settimana, Tutti vogliono qualcosa. Grazie Boris, ci sentiamo la settimana prossima. Alla prossima settimana e buon cinema. Ebbene, quindi con Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater noi abbiamo chiuso la carrellata dei film di questa settimana, delle novità in sala. È il momento di continuare a giocare con il nostro game, anzi di svelare i vincitori del gioco della scorsa settimana. Avevamo giocato, ricorderete, con questa clip. Questa stramaledettissima bufera di neve ci sta mordendo le chiappe da 3 ore ormai. Te la sguagli a metà strada e fili dritto all'Emporio di Minnie? Hai indovinato. Eravamo proprio all'inizio di uno dei film che hanno contrassegnato questa stagione cinematografica, come si conviene a una nuova uscita di Quentin Tarantino, quando è arrivato il momento di The Hateful Eight, c'era grande fibrillazione, insomma, poi è arrivato Tarantino a Roma, Cinecittà, in una proiezione speciale nello studio 5. Noi eravamo invece presenti alla proiezione milanese al Cinema Arcadia di Melzo, nello splendore, insomma, di una proiezione di grandissimo livello. Insomma, è stato un film che ha marchiato il territorio in quel periodo e che adesso, The Hateful Eight, è arrivato in home video, è arrivato in home video in tantissime versioni che vanno dal DVD al Blu-ray allo Steelbook, eccetera. Io annuncio i vincitori della scorsa settimana, che sono Andrea Santamaria di Genova e Alberto Dorsi di Cernusco sul Naviglio. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno la copia in Blu-ray di The Hateful Eight. Ci facciamo raccontare un po' quest'uscita così copiosa, così ricca, importante, dagli amici di Film TV. E con noi, come sempre, Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, come dicevi, arriva in DVD e Blu-ray quello che è l'ottavo film e mezzo di Quentin Tarantino, che è questa sorta di western da camera, un jeu de massacre tinto di giallo e pieno di sangue, che è anche un'allegoria politica veramente affilata, spietata sulla gestione del potere tramite la menzogna. Un film che, come dicevi, è stato girato nel glorioso formato dei 70 mm, quindi in pellicola, per un cinema da consumare in sala, in qualche modo contro il digitale. In questo senso la versione un video è abbastanza coerente, nel senso che è una versione corretta, ma sicuramente non memorabile, anche perché manca una cosa, a mio avviso, fondamentale, che è la versione espansa, quella di 187 minuti, che appunto, come dicevi, è stata proiettata solo nelle sale che potevano proiettare in 70 mm e in maniera tutto sommato coerente non è stata distribuita in queste versioni, prime versioni di DVD e Blu-ray, magari verrà distribuita più avanti. E insomma, questo allora è The Hateful Eight, il gioco della nostra scorsa settimana, adesso appunto disponibile in tantissimi formati in un video. Noi andiamo avanti con le segnalazioni dei palinsesti televisivi della prossima settimana, dove abbiamo pescato un paio di proposte, una italiana e una invece no. Cominciamo con quella italiana, un film di qualche stagione fa, anzi di parecchie stagioni fa, 1998, Leone d'Oro, la 55esima mostra internazionale di Venezia, Così ridevano, di Gianni Amelio. Racconta sei giornate nell'arco di sei anni, dal 1958 al 1964, ed è incentrato sul rapporto tra due fratelli emigrati a Torino dalla Sicilia. È un film che è una sorta di discesa nel baratro degli affetti e delle vergogne dell'Italia, dove Amelio si indigna per le condizioni dell'emigrazione dal sud al nord, anche se il film è poi soprattutto un grande film di potenza intimista sul rapporto tra i due fratelli. Secondo me è un film che arriva a sfiorare Visconti, Rocco e i suoi fratelli, e sa raccontare soprattutto prima con la forza delle immagini che con le parole, che non è un dato scontato. Assolutamente no, questo era Così ridevano, ricordo anche il titolo, l'origine del titolo, no Giulio, quella di una famosa rubrica della settimana enigmistica che era stata presa da Gianni Amelio come titolo del film. E allora Così ridevano di Gianni Amelio è su Iris alle 7.35 del mattino, orario un po' penalizzante, di domenica 19 giugno. Mentre mercoledì 22 cambiamo tutto, cambiamo genere, autore, continente, eccetera, ma sicuramente non cambiamo la qualità di un grande film come Il Cavaliere Elettrico di Sidney Pollack sulla 7 alle 23.45. Sì, abbiamo un campione di rodeo comprato da una ditta di cereali e trasformato in una sorta di stupida icona da baraccone che fugge con un cavallo prezioso per liberarlo dal giogo della società dello spettacolo. È il quarto film di Sidney Pollack con Robert Redford, qui con Gene Fonda, ed è un western moderno che racconta un eroico, malinconico scontro di valori. È quel bel cinema settantesco che ogni tanto fa bene al cuore e al cervello riguardare. E questo allora è Il Cavaliere Elettrico, la possibilità di vedere un Robert Redford davvero dannata sulla 7 alle 23.45 di mercoledì 22 giugno. Grazie allora a Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione e, come facciamo ormai da qualche settimana, prima di salutarvi vi diciamo qual è il film con cui abbiamo giocato questa settimana, con cui avete giocato con le vostre risposte via mail, i vincitori la prossima settimana. Ma il film era Zootropolis, il film Disney, uno dei film Disney ad animazione digitale di quest'anno. E allora, su questa novità che riproporremo la prossima settimana con i vincitori, io vi do appuntamento a sabato prossimo alle 18 qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.